procediamo con un mic check. Yo. Yo. Yeah. Non mi sento. non mi sento. Ah, io in cuffia non mi sentirò mai. Devi scostare un po'. Ma che oh. È lì il bug che riprende il grasso, si inventa le rime e le stede. Chi mi comprende ma lo sa che cosa dico quando arrivo nel locale, uomo, non sono un fico. Dico, io non bevo il mezzo ma un litro, e sappi che non passo finché io non l'ho finito. Lo spingo grasso, lo sai che non funziona. Fat MC arriva da Savona, non è vero, cazzo, lo dico e sono fiero. Da Genova Underground porto spesso il mio pensiero sul sentiero come un samurai, ma lo sai che sono tecniche, ma in freestyle high. Te la passo come Frank, hai energy. Io non penso bene, man, uomo, non mi spremi qui. E passo sempre con lo stile improvvisato. Sono brutto, più brutto di quanto hai pensato. Sappi che non passo, mi trovo dentro al cesso e sono grasso e ripasso. E quindi no, straccio la carta igienica. Il grasso non predica, tu che giri con il rene perché c'hai la medica, la metrica ostetrica. Cazzo, qua tu non esci. FTMC, Fred, dorme e piglia pesci. Lasciami stare, Adriano Celentano. Il grasso ce l'hai in mano, lo sai che continuiamo la bomba di afghano, sai che la passiamo. Io rantolo un po' come Califano, e Califano fra tutto il resto è noia. Fat MC uomo nato ma col boia, io la camicia ho la lingua che si ingoia, i bottoni uno dopo l'altro poi spara a memoria. A memoria rime tecniche quantistiche, lo sai che funziona. Fat MC rime mistiche, non so più che dire, devo progredire. È un mic check oppure sembra non debba finire. Sappi che se mi metti stop io mi fermo, altrimenti continuo ma continuo in eterno. E se finisce il beat cago ancora altre skit per le hit e poi le metti sul CD del tuo click, man. Le passo spesse, fette l'SOS, funziona sempre uguale. Io non vengo col calesse, vengo con la macchina di Ero. Sincero, Fat MC è uno sparviero. Yo, spaventa passeri non scassi, funziona sempre uguale qua non, tu non passi. C'ho il cordone rosso come fuori da un locale, le puttane col caviale qua non possono entrare. Lasciami stare, il liquore strega, è con il liquido del termosifone, non si spiega perché la gente se lo beva e dopo si ritrova tramortita su una sedia. È il Montenegro, lo sai che per davvero Fat beve birre strane ed è sincero. 33 centesimi oppure 50, io mi riempo la pancia perché la voglia è tanta. 2011 febbraio il calendario, continuo sto freestyle perché un suono troppo vario. Sappi che non finisco l'inchiostro del calamaio, e comunque non cado, non sono Romario, sono Ronaldo, Brasile brasilero, con il ginocchio in mano io vengo più sincero e me lo bevo tutto, sono sincero. Sputo sopra la retina, sì ma per davvero. E dopo puzza, e puzza così tanto che qualcuno ti dice Rocci ma come canto? E come cazzo faccio a cantarsi se ogni volta che ci viene il grasso sa sputarci? E tu siamo ubriachi marci, uomo non è vero, sì ma tu non puoi fermarci. Io c'ho una parola sola, stappo la Coca-Cola. Adesso finisco, Udomo, dimmi se funziona. Il microfono funziona, il beat funziona, l'unica missione è remix. Rocci Luciano, Fat MC 2011. Mischiano sta merda con il resto come il suono di chi muore, con i loro sguardi freddi persi in un calcolatore. Io non conto la pila sul sedile posteriore, sto davanti guido il mezzo, pesto l'acceleratore. Vado a mille, chi provoca scintille su ogni palco non vende la sua merda come ha fatto qualcun altro. Te vuoi seguire Fat, metti play, fatti una raia. Puoi seguire il mio labiale, c'hai la stanza che si squaglia. Io rap bastardo per gli infami della zona e rappresento come suona la gentaglia di Savona. Per ogni stronzo sono convinto che adesso lasciamo stare. Io non vengo ai vostri live per non farvi sfigurare. Ma stronzi, niente che fatto bene non si vende. Una vita che lo faccio e sono solite faccende. Vuoi comprarti un'altra casa e un'altra vita e finché dura? Per i veri resti in merda è la fama che ti incula. Tu non chiedermi di venderti, di venderti il mio nome, perché vendere il mio rap è come vendere il mio cuore. Mentre scrivi in una stanza luci spette e confusione, mentre fuori c'è rumore segui l'unica missione. Tu non chiedermi di venderti il mio nome, perché vendere il mio rap è come vendere il mio cuore. Mentre scrivi in una stanza luci spette e confusione, mentre fuori c'è rumore segui l'unica missione. Per alcuni sta missione è solo moda per l'estate, poi per gli altri è giusto buona ma per facile serate. State a festa autorizzate con medaglie fittica, non spingete il vostro nome perché farle una fatica. Ne parlate con l'amica della gita che mi gita, sulla scriva scrivo testi come leccare una figa. E che Dio mi benedica perché sto per far peccato, ma è un peccato non parlare se sei stato interrogato. E quindi parlo fino al giorno della morte. In Italia si fa rap perché le cose vanno storte. Mica come tutti quegli stronzi su MTV lascia stare. Si vede a tutti quanti una cultura trentina. In Italia se fai rap a 21 anni hai sbagliato, devi stare con gli scemi e fare il fit marginato. Io non credo alle stronzate, radio poi televisione, con la